resti aperta oppure chiusa, non mi importa più. Ormai sono in strada, dimentico di avere casa. Mi sembra di non farcela. Mi sembra di non arrivarci mai. Mi sembra tutto troppo.